dice che va bene prendersi tutto quando viene, ma io ho visto troppi soli salire in alto e poi cadere. C'è chi vende i suoi colori a chi vede in bianco e nero, ma io ho visto troppi amori fingersi amanti per davvero. E vanno nuvole che sfideranno il vento, bianche nuvole d'inverno. È mai possibile che sia per niente, bianche nuvole d'inverno. La paura, ma io ho visto troppi eroi perdere i dadi con la fortuna. C'è che lacrime d'argento chiusi a chiave per errore, vorrei che avesse 100 cuori ed un sorriso per amore. E vanno, vanno come se fosse niente, bianche nuvole. Vanno via da questo inferno, bianche nuvole di un istante. Noi siamo meno di quel meno noi, e se anche amare è solo niente, a me sta bene tutto il niente, sì.